Benvenuti a Cialtroni nello spazio. Benvenuto Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici informatiche che ascoltano questo mercoledì pomeriggio la nostra trasmissione di software libero, musica libera e cultura digitale. Ma è salito la sigla, Space 99 ci accompagna all'introduzione degli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Andremo a dare un po' di notizie rispetto a quello che succede nel mondo dell'open source, ma non solo, anche nel mondo della vita reale, con pesanti condanne che arrivano o si annunciano nei confronti di persone che si sono in qualche modo hanno fatto delle cose che sono ritenute non lecite, e alcune condanne in particolare sono veramente eccessive. Di questo ne parleremo tra pochissimo, poi andremo a dare degli aggiornamenti rispetto alla situazione francese sul diritto della copia privata, visto che negli ultimi mesi c'è stata una situazione quantomeno altalenante, ma a certi versi addirittura delirante rispetto a quello che è stato deciso appunto dal governo parigino, che ha deciso nel giro di due mesi, ha cambiato diverse volte posizione in maniera molto radicale sulla copia dei CD, e poi news qua e là. Poi oggi andremo a presentare anche dei software, Alessandro. Sì, visto la telefonata che abbiamo ricevuto in diretta settimana scorsa che non siamo riusciti a passare, parleremo di un paio di software per Linux per fare le copie di DVD, quindi il RIP e la decriptatura, quindi la copia di film anche protetti. Iniziamo dalla Francia, se sei d'accordo Alessandro. Iniziamo in particolare con la condanna a GuillermeToo, che è stato condannato, uno smanettone che aveva reso pubblica l'esistenza di una falla in un software antivirus, è stato condannato anche in appello. Mi sembra che avessimo parlato forse anche quest'estate, però era successo in estate quando la trasmissione andava in onda. Comunque sostanzialmente la colpa di questo ragazzo era stata quella di rendere noto che un software antivirus era fallato e che quindi la pubblicità con cui il produttore lo promuoveva era errata. La corte d'appello francese ha giudicato il caso di Guillaume Tena, che era noto appunto come GuillermeToo, e ha in buona sostanza confermato che è colpevole di aver reso pubbliche le vulnerabilità di Vyguard, un software di punta della francese Tegam. Una sentenza che sta facendo discutere, visto che si trascina ormai da 5 anni, una condanna che non è ancora stata pubblicata, le motivazioni della sentenza. Ovviamente GuillermeToo l'ha presa molto male, come si può leggere sul suo sito, che ha scritto appunto: ho perso, l'appello e la testimonianza di un esperto non sono serviti a nulla, a me la condanna, a me la multa, a me i danni con gli interessi, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, a chi ha espresso la solidarietà in questi anni. Non c'è il diritto in Francia di dimostrare tecnicamente che un software contiene una falla di sicurezza o che la pubblicità di quel software dice il falso. Dormite tranquilli cittadini, tutti i vostri software sono perfetti. Insomma, una nota anche diciamo così un polemica. Po' polemica rispetto a questo, dovrà pagare una multa e danni pari a circa 15.000 euro che il ragazzo appunto dice di non avere, e che infatti, ancora più sconsolato, dice: credo di non aver null'altro da fare che vendere il mio corpo o quello che ne rimane. Adesso è stata anche veramente difficile per 5 anni gestire questa cosa per GuillermeToo. Ecco, vabbè, questa notizia porta alla ribalta una problematica classica, tra virgolette, che riguarda i problemi di sicurezza, ovvero quando qualcuno scopre un problema di un software, il che vuol dire anche scoprire non solo falle di sicurezza, ma falle che potrebbero permettere l'appropriazione di dati, attività, oppure trasferimento di informazioni, insomma una serie di cose che possono anche incidere molto economicamente. Quindi quando qualcuno viene a conoscenza di queste informazioni, cosa fa? Ci sono diverse pratiche, ognuna con le sue motivazioni. C'è chi sostiene, nella comunità tra virgolette hacker in senso allargato, che la serie di passi da fare passano prima per con la comunicazione diretta con l'azienda o chi produce questo software, e solo in successivo ordine alla pubblicazione, quindi alla resa pubblica di questi errori, e quindi diciamo con dei periodi anche di latenza in cui questa falla di sicurezza resta sconosciuta agli utenti che usano questo software, e solo successivamente alla pubblicazione, quindi se l'azienda non si attiva per le correzioni o l'informazione, renderla pubblica. C'è chi sostiene che la notizia va comunque resa pubblica immediatamente, ed è diciamo l'approccio più comune nei software open, tant'è che esistono dei siti internet, comunque dei collettivi in internet molto rigorosi, che raccolgono tutte queste segnalazioni. Ne esistono svariati, non li segnalo, nel senso che sono cose abbastanza tecniche. Sono cose tecniche, chi ne ha bisogno li conosce sicuramente. E c'è chi sostiene invece più diciamo la filosofia da cracker, come si dice, di tenersi le informazioni per sé e sfruttarle il più possibile per i propri interessi personali, siano essi ideologici o tipo direttamente economico. Guglielm era più della filosofia grey hat, si chiama, quindi cappello grigio, quindi di rendere pubblica questa informazione indipendentemente dai danni economici, sostenendo che l'interesse pubblico, quindi di tutti gli utenti di questo software, teniamo presente che il software in Francia è molto diffuso, viene prima dell'interesse dell'azienda che lo produce. Tra l'altro si trattava appunto di un software di sicurezza e di sì, antivirus che comunque è significativo anche questo fatto, insomma. Cioè la pubblicazione della falla di sicurezza del programma di un videogioco piuttosto che di un programma di videoscrittura è relativa, dove si va invece ad incidere anche sulla capacità di vendita, insomma, quando poi rientrano anche questioni di interessi economici forti, queste questioni diventano importanti, perché se un software di sicurezza, un antivirus, un firewall, piuttosto che un apparato hardware come nel caso dei router Cisco, se queste informazioni vengono divulgate, sono soldi che possono uscire dalle casse di queste aziende in mancanza di commissioni, in cause legali, perché questi software comunque a volte nei loro deliri di sicurezza, magari ne parliamo dopo con l'uscita di Microsoft eccetera, comunque nei loro deliri di sicurezza garantiscono delle cose che poi agli effetti non sono in grado di garantire, perché il software in generale, per come è, per come funziona, non è in grado di garantire. E questa condanna è molto pesante, proprio perché sega le gambe, nello senso della parola, a questa pratica, che ripeto è una pratica ritenuta fondamentale dalla comunità open e che ne fa un suo strumento giornaliero. Diciamo che per quanto riguarda i software open source, questa pratica si potrà continuare a fare anche in Francia, nel senso che nessun software open intenterà mai una causa per chi pubblica un sobbacco di sicurezza. Anzi, diciamo che potrebbe servire proprio a stimolare ancora di più lo sviluppo di questi software, che danno la garanzia di dire sempre i loro problemi e non di nasconderli, o peggio ancora di intentare le cause verso chi li rende pubblici. Ma restiamo in Francia, parliamo sempre di diritti. C'è stato alcune bagarre nei mesi scorsi rispetto alla possibilità o no di fare una copia privata del software all'interno, scusate, non solo di software ma proprio dei CD in vendita, ed è una sentenza relativamente al produttori che inseriscono sistemi anticopia nei CD. Ne abbiamo parlato a lungo. Secondo il tribunale della Corte di Cassazione francese, quindi anche in Francia il massimo tribunale, il diritto ad eseguire una copia a scopo personale di quanto acquistato, pur citato dalle leggi sulla proprietà intellettuale, non può rappresentare un ostacolo all'inserimento nei supporti sui quali sono riprodotte le opere protette di sistemi tecnologici di protezione pensati per impedirne la copia. Quindi sostanzialmente è un'apertura verso il verso i DRM, come avevamo parlato ad esempio nei mesi scorsi di quelli della Sony e comunque tutti quei programmini che, inserendo un CD all'interno del computer, partono e limitano, impediscono, cercano almeno di impedire la copia dei dati all'interno del CD, quindi anche delle tracce audio. A nulla vale quindi il richiamo alla Convenzione di Berna, che parla di autorizzazione alla copia privata. Il caso arriva su una sentenza che era stata sollevata da un'associazione di consumatori che in primo grado avevano ottenuto una sentenza favorevole, che aveva suscitato grandi speranze per il riconoscimento della copia privata come diritto del consumatore. Ma a questo punto la cosa è ancora più pazzesca, perché la sentenza non rende più obbligatoria la dichiarazione di presenza dei DRM sui contenuti in vendita, e quindi sostanzialmente si compreranno dei CD senza nemmeno sapere cosa potrete fare di quei CD, se potrete ascoltarli sul vostro computer in una maniera abbastanza sicura, o in molti casi addirittura, visto che ci sono stati segnalati diversi problemi, anche ascoltarlo sulla vostra auto ad esempio, o comunque farne una vostra copia proprio per impedire magari che che vi spacchino i vetri dell'automobile e vi rubino nel giro di 2 secondi centinaia di CD che magari preferireste avere in copia, oppure semplicemente fare delle copie per il vostro riproduttore MP3, come che sono sempre più diffusi. E questo non sarà più dichiarato non più possibile. In più, appunto, aggiungiamo, non c'è nemmeno la possibilità di sapere se il CD che comprate è protetto da DRM o no dopo questa sentenza. Proprio legata a questa notizia è la diffida che arriva da Altro Consumo nei confronti di EMI e Sony. Quindi Altro Consumo, associazione di consumatori, ha iniziato a combattere l'illegalità dei sistemi di Digital Rights Management, i DRM, che dicevamo prima, che rendono appunto impossibile l'effettuazione di una copia privata e che a volte impediscono la riproduzione del contenuto su lettori CD da auto e soprattutto da computer. Ai sensi del codice del consumo, l'associazione dei consumatori ha diffidato le case discografiche Sony ed EMI dal proseguire la distribuzione e la commercializzazione di CD musicali contenenti sistemi abusivi, così vengono definiti, antiriproduzione, una vera e propria lesione dei diritti e degli interessi dei consumatori alla fruizione privata. I sistemi applicati in alcuni CD musicali impediscono l'utilizzo del prodotto per la finalità per cui è stato acquistato e ledono il legittimo diritto del consumatore alla copia privata. E con la diffida, Altro Consumo ha anche invitato Sony ed EMI a informare immediatamente e adeguatamente i consumatori sull'eventuale presenza del sistema anticopia e dell'impossibilità di utilizzare certi CD su supporti ben definiti. E Altro Consumo ha anche minacciato di ricorrere ai tribunali e sta valutando la possibilità di allargare la diffida ai venditori. Questa, insomma, è un po' come è successo negli Stati Uniti, insomma, con le associazioni dei consumatori. Ecco, questa è la strada che si sta cercando di percorrere, che può essere anche che per le multinazionali alla fine questo diventi un grosso boomerang, nel senso che se le persone non potranno più ascoltare i CD nuovi sul computer o comunque su, anche sull'automobile, come in alcuni casi accade, sarà sempre più facile che si diffonda l'esatto opposto di quello che vorrebbero le case discografiche, ovvero che qualcuno, pur avere la sua copia, se la scarichi da internet, che almeno la può ascoltare al computer e non è costretto a bypassare 10.000 protezioni per poter farsi una copia da ascoltarsi sul lettore MP3, ad esempio. Ah, facciamo un breve stacco musicale? Sì, allora, vabbè, il live motif di queste ultime puntate è il molto ricco comunque. Il repository Yamendo, perché comunque è ricchissimo, perché mi permette di scegliere tra tantissimi generi e comunque tutte cose di qualità. Oggi ti ascoltiamo un po' di hip hop, un po' di hip hop cantato in francese da dei, diciamo, degli immigrati di seconda generazione. E allora, si chiamano RMX. L'album si intitola Remember Senegale e questa è la canzone che dà il titolo all'album, quindi Remember Senegale. Give me a ticket to go by train or by bus. When I go me back home Leo forse da Sengor. Ci fa bilan. Skin falsi ci reutuva. Ah, una tassa per leggere le pagine web. Questo arriva dall'Australia, un equivalente arriva in particolare dalla società italiana Autori Editori equivalente in Australia, che pretende il pagamento di un equo compenso da tutti gli istituti che forniscono accesso a internet e che spingono gli alunni alla consultazione online di testi. Quindi insomma stiamo arrivando veramente al delirio. Le scuole dovrebbero pagare una quota annuale perché i docenti possano continuare a utilizzare l'informazione online per fini educativi, come se le informazioni che vanno a trovare fossero rubate a qualcuno, come se si ledesse i diritti di qualcuno navigando su internet e poi non si capisce perché non si possa insegnare agli alunni a prendere insomma, le notizie e le informazioni dove le informazioni stanno. Il secondo, i soldi raccolti, secondo appunto la Copyright Agency australiana, servono come quota di riparazione per pagare gli autori, i cui diritti sono lesi da questa pratica diffusa negli istituti. Sarebbe veramente divertente capire a chi andranno tra gli autori questi diritti, visto che sarebbe come dover calcolare quali sono i testi che sono letti nelle scuole. Vabbè, comunque continuiamo con questo delirio. La cifra verrà stabilita da un tribunale federale, si aggiungerà, andrà ad aggiungersi, scusate, agli oltre 26 milioni di euro che sono raccolti ogni anno come equo compenso per un altro vizietto tipico del sistema scolastico, ovvero la diffusione di fotocopie tratte da testi protetti dal diritto di autore, come se dovessimo comprare un libro perché dovete fare una versione di greco e questa versione è su un libro che voi non avete e il professore dovesse farvi comprare a tutti. Vabbè, non stiamo scherzando. La reazione dell'associazione dei docenti ovviamente non si è fatta aspettare. In questo modo hanno fatto sapere gli insegnanti: saremo costretti a pagare oppure dovremo chiudere definitivamente ogni accesso ad internet fornito dagli istituti. E appunto questo sono stati intervistati gli insegnanti, esponenti del Ministero per l'Istruzione, almeno loro, hanno espresso dubbi riguardo a questa iniziativa. Ma stando ad un reportage pubblicato appunto da News Interactive, le richieste della Copyright Agency porterebbero ad una soluzione paradossale: le scuole sarebbero costrette a pagare per visitare siti web. Mentre invece dalla Copyright Agency fanno sapere di essere ottimisti, perché la richiesta di un equo compenso per l'uso di internet non significa, dicono, che le scuole devono smettere di visitare le pagine web. E hanno detto che le scuole dovranno pagare una quota per utilizzare senza alcun problema qualsiasi tipo di materiale prelevato da internet. Ovviamente su questo ci sarà da discutere in Australia e sarà proprio divertente vedere come, se questo arriverà nelle aule giudiziarie, come si fa a sostenere che per navigare in internet le scuole devono pagare una tassa. Sembra molto una cosa terroristica, come l'ultima campagna pubblicitaria della Microsoft, il cui scopo è proprio quello di terrorizzare i governi, cercare di convincerli che l'open source è il male assoluto. E soprattutto è divertente come cerchino di dimostrare che l'open source e il software libero siano contagiosi, e questa è la cosa abbastanza divertente. L'ultima pubblicità che abbiamo trovato trovato in, che si trova in giro su anche su molti siti che parlano di open source. La cosa divertente, perché mentre questi siti continuano ad attaccare Microsoft, Microsoft continua a cercare di comprarli, e poi sostanzialmente per ora almeno non c'è riuscita, perché non ci sono stati casi di particolari censure di notizie contro Microsoft, almeno a nostra conoscenza. Sembra proprio anzi che si cerchi di utilizzare in un certo senso i soldi del nemico, almeno in questo caso, per portare avanti l'informazione contro di lui, un po' come se la Coca-Cola finanziasse le manifestazioni contro la Coca-Cola in un certo senso. Però questo è sicuramente una cosa divertente. L'ultima campagna è un progetto che si chiama Valuta i Fatti. Le pubblicità sono disponibili su molti dei siti che utilizziamo per la stessa costruzione di questa trasmissione, e si può tradurre questo Valuta i Fatti come paura, incertezza e dubbio, questa che viene sintetizzata in inglese in food. Lo trovate dappertutto, scrivono su Zeus News ieri, ad esempio come pubblicità martellante dei media di informazione specializzata, tra cui appunto anche i discussi banner su Zeus News stesso, oppure nella forma di deliranti ricerche pubblicate da analisti indipendenti, peraltro più volte clamorosamente sbugiardate, viziate quantomeno da una forte influenza del committente, che ovviamente è Microsoft. Ecco, questi analisti indipendenti non sono come quelli che Microsoft paga la pubblicità per mettere sul sito, ma sono proprio commissionari dei lavori, che funziona poi in una maniera abbastanza diversa. La paura di Microsoft è che i governi ultimamente stanno mostrando interesse crescente verso il software libero, gratuito e open, e lo stanno adottando in maniera massiccia. I motivi di questa, alla base di questa scelta, sono soprattutto i costi, ma per molti stati è anche l'indipendenza tecnologica da potenze straniere, vediamo il caso della Cina ad esempio, ma anche la qualità dei programmi, soprattutto nel campo della sicurezza, e per questo motivo i numeri cominciano a diventare un po' imponenti, e forse anche Microsoft è molto spaventata da questo. Infatti ogni scelta effettuata dai governanti porta con sé la migrazione quasi automatica di aziende pubbliche e private, e ovviamente anche di utenti. E allora cosa succede? Gets the Fact, Valuta i Fatti, è la nuova campagna a cura di uno studio legale, Chapman Tripp, che cerca di convincere che le licenze open source possono contagiare altro software, forzando le agenzie governative a svelare i sorgenti dei propri programmi. L'agente patogeno, secondo questo studio legale, sarebbe proprio il copyleft. Il software affetto da tale patologia contagerebbe il software derivato, coprendolo con la stessa licenza malata, insomma, in un certo senso è vero, ovviamente non si tratta di una malattia. Beh, è sempre stata chiamata la viralità della GPL questa, ovvero il fatto di propagarsi tramite se stessa, però è sempre stata connotata in maniera positiva in questo senso. Infatti quello che sta la pubblicazione è divertente, perché poi dice: gli effetti infettivi di licenze open source possono essere limitati mettendo in quarantena i componenti infetti in maniera separata dal resto del codice, e la colpa di questi disagi sarebbe tutta delle organizzazioni che si occupano di promuovere il software libero e gratuito. Ovviamente c'è molta confusione su questo, perché viene strumentalizzata la libertà del codice sorgente e invece le informazioni che ovviamente nessuno cerca di mettere in condivisione, ovvero un conto è il software, un conto è per esempio il programma che gestisce l'anagrafe, e un conto è invece tutto quello che c'è all'interno, i dati dell'anagrafe. Quindi questo è molto strumentale da parte di Microsoft. Ecco, c'è da dire che la pubblicazione ha come obiettivo proprio quei dirigenti che spesso non ne sanno nulla di questioni informatiche e non lavorano nemmeno con lo strumento direttamente, ma che sono poi spesso quelli che prendono le decisioni su cosa viene acquistato all'interno, soprattutto dell'amministrazione pubblica, ma comunque anche nelle aziende private di grandi dimensioni. E quindi questa pubblicazione è diretta a loro, insomma, per spargere un po' questo terrore rispetto a, diciamo, non addetti al settore che, vabbè, leggono e non sanno valutare troppo quello che leggono, ma che poi ha delle conseguenze dirette sulla vita di tutti i giorni, in primis degli impiegati che devono utilizzare queste cose, e in secondo poi su come i cittadini si interfacciano all'amministrazione pubblica o comunque agli enti pubblici, non ultimo il caso della RAI con RaiClick, che utilizzava il formato video di Microsoft con allegato il bel DRM di Microsoft, oppure le amministrazioni pubbliche che insistono a utilizzare il punto doc per diffondere i loro documenti, eccetera, quando oltre è stato più volte segnalato come formato pericoloso e non pubblico. Insomma, tutta una serie di cose che sono il risultato di queste pratiche che Microsoft fa soprattutto negli alti livelli, nelle sfere dirigenziali delle pubbliche amministrazioni e delle grandi aziende. Quindi mi sembra che siamo in tremendo ritardo anche oggi, in effetti, decisamente. Avevamo detto che avremmo, oltre a queste novità, avremmo presentato anche un software per cercare di, diciamo così, fare delle copie personali di DVD che vi siete legittimamente acquistati, mettiamola in questo modo. Che cosa si può usare su Linux? Alessandro, rispondiamo magari velocemente, poi ci torniamo. Allora, velocemente, sì. Allora, vabbè, era arrivata una telefonata che chiedeva se era possibile fare, se c'erano dei software sul modello di DVD Shrink di cui avevamo già parlato, oppure di DVD Decrypt, eccetera, che permettono di fare le copie di film protetti, quindi copie di film in generale, perché quelli non protetti sono veramente pochi. Allora, esiste, ne esistono svariati, la maggior parte sono di tipo testuale, quindi evitiamo di consigliare direttamente, perché chi li sa usare sa anche come trovarseli. Quello che segnaliamo è DVD Rip, che si trova, l'indirizzo è un po' lunghino, quindi guardatelo sul sito nostro, che è spazio.circolab.net. Quando verrà aggiornato? Sì, abbiate pietà, sono un po' indietro. Comunque si chiama DVD 2.2. Rip, è un programma scritto in Perl, per cui ha questa sintassi particolare. Comunque è un'interfaccia grafica per una serie di comandi, tra cui transcode, che è quello che fa il lavoro di conversione e di rippatura. Sul sito non troverete direttamente segnalazioni su come si decriptano, perché per scelta degli autori questa cosa non viene trattata all'interno del sito, anche per tutte le problematiche dei CSS che c'erano state l'anno passato con il rischio di chiusura di molti siti legati a questo genere di progetti. Siccome utilizza degli altri pacchetti come Transcode è in grado di farlo, e comunque esiste l'altro pacchetto che si chiama DVD Rip, senza i due punti. Comunque attraverso Transcode è possibile tranquillamente fare il rip anche di quelli protetti senza dover aggiungere un granché. Quindi diciamo che con questo tool è possibile fare la cosa, anche se sul sito non è dichiarato esplicitamente. Con questo mi sembra che chiudiamo la trasmissione, lasciamo la linea tra pochi istanti a Biovera, vai con la sigla se sei pronto, e noi salutiamo tutti, l'appuntamento per mercoledì prossimo a partire dalle 12.40, un po' in ritardo, quindi diciamo già le 12.45, che è un po' una tendenza che stiamo tenendo nelle ultime settimane. Un saluto quindi da Alessandro e da Francesco, un saluto anche da Marco, che sappiamo che ci ascolta virtualmente dal Sud America, dove è in vacanza, ci manca tanto, e sentiamo, speriamo che torni presto. Intanto Alessandro è un po' incasinato con la sigla, quindi qualche istante di ovviamente musica, bisogna sempre andarla a recuperare e dopodiché Biovera.